24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 37 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 1 aprile. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella. Buongiorno ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ci siamo, ci siamo. Oggi parleremo di un po' di cose, sì. Parleremo del tema della riapertura, come, quando, a scaglioni, insomma un po' di idee che circolano. Poi ci occuperemo di quel che succede nel mondo delle banche e nei rapporti tra le banche e i clienti in questa fase col presidente dell'ABI Patuelli. Ma prima, Maria, portaci tra Gran Bretagna e Francia, va? Gran Bretagna mi pare, come dire, messa piuttosto male. Avete citato anche voi prima la morte del giovane italiano 19enne, ci sono appunto delle tensioni nel paese di Boris Johnson, e oggi il Guardian appunto mette in luce che gli staff degli ospedali sono sotto pressione, lo fa da parecchi giorni, e mette sempre anche in prima pagina il record delle morti per giorno. Naturalmente non manca una citazione di humor britannico, perché c'è anche una foto di capre per le strade. Questo per, come dire, evocare quell'immunità di gregge che all'inizio Boris Johnson piuttosto improvvidamente aveva citato come la soluzione di tutti i problemi per la Gran Bretagna, mentre in Francia continua la Francia continua a seguire quella che è stata la nostra vicenda delle settimane scorse, perché per esempio la prima pagina del Figaro oggi racconta le storie dei confinati, un po' quello che da giorni fanno anche i giornali italiani, ciascuno la propria testimonianza. Però bisogna anche riconoscere che in Gran Bretagna danno merito all'Italia, e questo però lo leggiamo su un quotidiano italiano, il Messaggero, perché l'Imperial College, racconta appunto il Messaggero, dà conto del fatto che la chiusura totale in Italia delle ultime settimane, secondo gli studiosi dell'Imperial College, ha salvato almeno 38.000 vite. E insomma, questa mi pare una notizia incoraggiante con la quale cominciare la nostra mattina. Speriamo che continui così. Sicuramente. Fammi invece a me, prima di andare al nostro ospite, fammi invece soffermare su un paio di cose. Allora, innanzitutto l'ascoltatore che ci dice: grazie agli annunci giornalistici, sono due giorni che sono aumentate le macchine in giro, dovreste vergognarvi, amico mio. Allora, se abbiamo il capo dell'Istituto Superiore di Sanità che dice che siamo arrivati al picco e da questo momento ci sarà un plateau, non sono le informazioni giornalistiche, ma è l'Istituto Superiore di Sanità che dice una cosa, e noi questa cosa la riferiamo, e i segnali che ci arrivano dai numeri sono questi. C'è un problema, ed è associato alla circolare di ieri del Viminale, che in stile tipicamente italiano ha fatto una confusione inenarrabile, perché è arrivata questa circolare che diceva che si può uscire col bambino, nella quale si parlava di attività motoria, ma non si chiariva esattamente se uno poteva andare a correre oppure no, e quindi hanno dovuto fare un comunicato stampa successivo che diceva che sì, in fondo tutto sommato si può andare a correre intorno a casa. Insomma, sono segnali di rilassamento che arrivano direttamente dalle istituzioni, non è che ce li stiamo inventando noi. Che siano pericolosi, beh, su questo possiamo essere d'accordo. E l'altro elemento tipicamente italiano, Maria, poi ti lascio la parola, è quello che succede dalle parti dell'INPS, dove molti ascoltatori ci segnalano è da stamattina che siamo incastrati per cercare di accedere alla pagina per il contributo. Sentiamone tre, va. Ma caro Spezia, entrare si entra nell'INPS, anche se è un po' lento, si entra comunque. Il problema è che una volta che sei dentro e hai fatto l'accesso con lo SPID, non c'è la voce, non c'è il tasto da cliccare, non si capisce cosa bisogna fare per richiedere l'indennità da 600 euro, questa è la questione, grazie. E ieri sera ho ascoltato il presidente dell'INPS che diceva che ci sarebbe stata una procedura semplificata con la sola prima metà del PIN per poter effettuare l'accredito dei 600 euro, ma sono entrato nel sistema e mi chiede il PIN intero. Eccomi qua, io sono dentro al sito da questa notte praticamente, quindi io sono nel sito, ma anche se sei all'interno del sito arrivi sulla domanda e ti dice che la domanda sarà disponibile a breve. La domanda non c'è, la domanda per fare i 600 euro non c'è. Tipico delirio italiano, cara Maria. È comunque è uno di quei momenti in cui noi giornalisti ci sentiamo utili, perché speriamo che se non il presidente Tridico, almeno dei funzionari dell'INPS siano in ascolto, o se non sono in ascolto magari qualcuno glielo dirà, e correranno a, come dire, a rendere più efficienti le cose, anche perché così è stato detto, no? Nel momento, sì, in cui ti annunciano che la cosa sarà fattibile e anche facilmente eseguibile, poi deve essere così. E poi tutt'altro discorso è se questi soldi bastano. Intanto salutiamo Giovanni Cagnori, che è presidente di Carisma SPA, è una società di partecipazioni. Buongiorno Cagnori, benvenuto. Buongiorno. L'uomo che ha lanciato l'idea del rientro scaglionato per età, Eh sì, lei è stato il primo con un articolo che poi è stato pubblicato anche dal Corriere della Sera. Le ipotesi scaglionati per età, scaglionati per regione sono sul tavolo e, come dicevamo anche con i nostri ospiti ieri, il piano dovrà essere operativo a breve, perché comunque ci vuole. Le voglio chiedere, Cagnoli, l'ipotesi di rientrare a seconda dell'età, perché si dice quelli sotto i 40 anni sono stati meno colpiti, per ora almeno, dal virus, si scontra con il fatto che nelle aziende, e me lo dicono molti imprenditori, le esperienze, le capacità di azione, eccetera, spesso stanno in capi stabilimento, per esempio, che hanno più di 60 anni, quindi questo sarebbe un ostacolo all'applicazione della sua proposta. Che ne dice? Io penso che prima di tutto dobbiamo abituarci a una nuova normalità che sarà diversa, quindi certamente ci sono dei problemi. Se non rientrassero delle persone che hanno più di 60 anni in posizioni che hanno un contenuto critico nel senso molto importante. Però scusi, io vorrei chiarire, non vorrei che la proposta che avevo lanciato, che poi non ho inventato io, è sostanzialmente mutuata da cose che Israele sta portando avanti e sono molto più avanti di noi nella gestione del piano di rientro. Ma io dico per età, ma non solo per età, dico anche per mobilità, perché un cinquantenne con cardiopatico è più a rischio di un sessantenne sano, per esempio. C'è sesso, le donne hanno dei rischi molto più bassi degli uomini e c'è territorio, perché ci saranno territori che hanno una fine del contagio molto più anticipata rispetto ad altri che sono più indietro sulla curva. Quindi quello che io sostengo è che debba esserci un piano molto articolato, molto complesso, molto ben fatto soprattutto. E se non riusciamo a dare accesso al modulo INPS, piuttosto che facciamo 5 moduli di autocertificazione piuttosto incomprensibili, piuttosto che diciamo sì, cassa integrazione con tutta una serie di annunci, però quello che è vero è che il 27 del mese di questo mese marzo la cassa integrazione l'hanno versata le aziende, io temo molto che il piano di rientro di cui stiamo parlando sarà un gran pasticcio, e se così fosse il costo economico è gigantesco. C'è una riflessione che è partita ieri, abbiamo avuto ospite il ministro dello sviluppo economico Patuanelli, il quale dice più che una riapertura per territori o per età o per condizione, io immagino una riapertura per filiere. Le sembra convincente? No, nel senso che la filiera è uno degli elementi, ma non si può immaginare una riapertura per età o per regione o per filiera. Le tre cose vanno messe insieme e coordinate. Quindi quello che dice il ministro Patuanelli non l'ho sentito, ma se è quello che lei mi riporta non è per nulla convincente, nel senso che non si può dire apriamo una filiera e dire poi il rischio non importa. Il rischio va verificato su tutte le dimensioni, e bisogna mettere insieme le varie riflessioni. Le faccio un esempio: ci possono essere filiere che hanno dei livelli di rischio molto elevati perché le attività produttive sono contigue, e ci sono filiere che possono avere livelli di rischio molto più bassi e la cosa va verificata. Quindi la semplificazione in questo caso può essere buona per degli annunci, ma è pessima per la gestione effettiva del grado di rischio e del grado di utilità dell'apertura. Maria. Cagnoli, approfitto del fatto che lei è non soltanto quello che ha avviato questo tema della riapertura scegliendo appunto lo scaglionamento per età o per regioni, ma è anche appunto uomo di economia, è stato amministratore delegato e fondatore di Bain & Company, una delle società di consulenza più note al mondo, e presiede ora una holding con 14 aziende e 1000 dipendenti. Si discute come aiutare queste aziende. Nei giorni scorsi un gruppo di economisti che appartengono all'associazione Minima Moralia ha avanzato un'ipotesi, cioè quella che gli operatori economici possono chiedere alla loro banca un finanziamento pari al 25% del fatturato del 2019, con la garanzia dello Stato al 100%. È una delle ipotesi sul terreno, no? Ce ne sono altre, però questa avrebbe il vantaggio per cui le banche potrebbero prestare rapidamente, visto che non ci sarebbe istruttoria da fare perché c'è una garanzia del 100% da parte dello Stato. Le pare una strada percorribile? Sì, conosco quell'iniziativa, l'ho vista da una decina di giorni, la trovo assolutamente meritoria, è ben fatta, è una strada che secondo me dovrà essere percorsa e credo che poi a mia volta sto elaborando un ulteriore passo in avanti rispetto a quella iniziativa, che sono, da quel che ho visto, 5 slide, ripeto, ottime, e si può però fare dei passi in avanti, calcolare quello che potrebbe essere il costo per lo Stato di questa iniziativa e alcuni altri dettagli, però molto bene. Vorrei fare, se mi permette, il perché molto bene, perché qui ci si dimentica che la base imponibile dello Stato, su cui Draghi ha fatto un articolo che trovo coraggioso, lungimirante, proprio splendido, è quella che pagherà nel 2021, 2022, 2023 e in seguito le pensioni, la sanità e il pubblico impiego. Quindi se non salviamo base imponibile, che vuol dire lavoro, lavoratori dipendenti, autonomi e aziende private che danno lavoro a questi lavoratori dipendenti indirettamente anche autonomi, avremo grande difficoltà a pagare pensioni e sanità. Quindi la base imponibile va salvata, la base imponibile vuol dire lavoro e aziende che pagano tasse ovviamente, e quindi questa iniziativa mira a salvare le aziende e il lavoro, che deve essere assolutamente prioritario nella manovra. La ringraziamo, grazie Giovanni Cagnoli per essere stato con noi. A meno che tu, Maria, non abbia... con una buona notizia che ci arriva adesso da un ascoltatore. Dice: io sono entrato nel sito INPS stamattina alle 6, ho fatto domanda per le 600 euro e tutto ha funzionato perfettamente. Quindi, tempo impiegato 15 minuti. Per alcuni funziona, per alcuni no. Insomma, speriamo soprattutto si faccia un po' di ordine in questa confusione. Grazie Cagnoli per essere stato con noi, una pausa e poi andiamo con il presidente dell'ABI. E dunque, dibattito aperto, riaprire, come, quando, se volete dire la vostra, c'è il 349-238-6666 per gli WhatsApp audio e anche l'800-24-0024 se volete chiamarci e intervenire in diretta. Ne chiacchieriamo un po' soprattutto verso la fine della trasmissione, perché adesso ci concentriamo sul tema delle banche, della liquidità alle imprese e alle famiglie. Siamo con Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. Patuelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti voi. Maria, prego. Buongiorno Patuelli. Buongiorno. Senta, partirei subito dall'allarme, dal report dell'Ufficio Studi di Confindustria, che parla appunto di un meteorite che ha colpito la nostra economia. E gli industriali stimano che da maggio in poi, per ogni settimana di ulteriore lockdown, il sistema Italia perderà lo 0,75% del PIL, circa 13 miliardi di euro. Per ora dal governo sono arrivati 25 miliardi, dovrebbero arrivarne altrettanti a breve. La sua ipotesi di utilizzo di queste risorse proprio per venire incontro al mondo dell'industria? Guardi, innanzitutto non è un meteorite, è una pioggia di meteoriti che si è diffusa, concentrata in termini di salute nel nord Italia, ma con conseguenze che poi si sono diffuse su tutto il paese. E di conseguenza è difficile poter avere delle certezze previsionali per i mesi prossimi, perché tutto dipende dalla durata del virus. Questo è l'elemento centrale. Io quindi sono prudente sulle previsioni, ma sono molto più impegnato sulle soluzioni. E questo è un momento di straordinario impegno per le soluzioni. Non ci sono solo le risorse messe in campo con il decreto di marzo dal governo e quelle annunciate questa mattina in una importante intervista del ministro dell'economia e delle finanze, professor Gualtieri, sembra con misure di ulteriore più forte impatto. Ma c'è un momento di emergenza in cui le banche in Italia stanno facendo un lavoro straordinario, nel senso che noi siamo stati i primi, assieme a Confindustria, agli altri organismi delle imprese e ai sindacati, nei primissimi giorni di marzo a raggiungere l'accordo per le moratorie volontarie delle piccole e medie imprese, che hanno anche anticipato il provvedimento di legge sulle moratorie appunto di Stato. E siamo reduci negli ultimi tre giorni da una maratona infinita di riunioni e di contatti per raggiungere un risultato, ovvero sia che le banche anticiperanno la cassa integrazione ai cassi integrati, proprio per cercare di favorire una continuità dei flussi di liquidità. E poi, come oggi ben spiega in tante importanti pagine che sono non solo da leggere ma da studiare, il Sole 24 Ore di questa mattina, ci sono in pista delle garanzie che già sono in atto da parte dello Stato e quelle che si auspicano siano rafforzate dal prossimo decreto di questo mese di aprile, perché le garanzie vanno alle imprese e quindi danno sostegno e prospettiva e possibilità di avere nuova liquidità. Sì, l'ipotesi che ci ha confermato tra l'altro ieri il ministro Patuanelli, la direzione è quella di che lo Stato garantisca al 100% i crediti concessi dalle banche alle imprese, e questo potrebbe essere un buon punto per fornire liquidità immediata, perché qua Presidente, mi sembra che possiamo distinguere tra due fronti, no? Un fronte di copertura immediata dell'emergenza, abbiamo molti ascoltatori, magari imprenditori, piccoli imprenditori, anche negozianti che ci scrivono: in questi giorni sono andato in banca, ho chiesto qualcosa, un'apertura di credito perché sono in crisi, non riesco nemmeno a pagare i fornitori, e mi è stato detto: al momento, dato che non hai visibilità di business per i prossimi, per non si sa quando, non possiamo dartela. E questa è l'emergenza immediata, e poi ci sarà il lungo termine, ma ci arriviamo tra un attimo. Ci dà intanto una risposta su questo, sull'immediato? Ah sì, nel senso che noi continuiamo a lavorare su un doppio piano, ovvero sia con le norme stringentissime, internazionali, europee e nazionali, frutto di oltre un decennio di crisi finanziaria e che quindi hanno ingessato le possibilità delle banche di discrezionalità. Il merito di credito è ancora fissato con le regole che non sono cambiate in questi due mesi. Dall'altro lato vi sono tutte le iniziative di moratoria, quindi di allungamento dei prestiti per chi li ha in essere e di anticipazione della cassa integrazione, che chiaramente non esauriscono tutti i problemi. È chiaro che quando chiediamo più garanzie per le imprese significa trovare la possibilità di dare più liquidità alle imprese, evitando la gabbia, parliamoci chiaro, delle normative che sono rimaste ad oggi tutte le stesse sulla definizione del merito di credito. Patuelli, senta, per ottenere quello che il commissario europeo Gentiloni lascia intendere dovrebbe essere prima o poi il consenso europeo, cioè per avere i soldi da destinare poi anche alle aziende italiane, bisognerà dare anche prova di responsabilità, e i primi, no, a dare prova di responsabilità devono essere anche coloro che chiederanno l'accesso a questo aiuti di Stato. Sia negli Stati Uniti che in Francia si sta facendo avanti l'ipotesi che le aziende che chiedono aiuti allo Stato non versino assolutamente dividendi. Il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire ha precisato che le imprese che pagheranno dividendi dovranno addirittura restituire gli aiuti pubblici con una penalizzazione, e questo, diciamo, principio sembra essere stato compreso anche dalle imprese francesi, che cominciano anche a tagliare del 25% la remunerazione degli amministratori delegati. Sta cambiando qualcosa nel mondo dell'economia, secondo lei, e queste, diciamo, misure di senso di responsabilità che cominciano a essere richieste, lo dicevo, anche negli Stati Uniti, debbono essere perseguite anche in Italia? Ma, guardi, a me sembra ovvio che se lo Stato interviene con i soldi di tutti, poi i soldi di tutti non possono diventare soldi di pochi. Mi sembra una cosa che dovrebbe essere automatica. Peraltro ci sono precedenti nella storia economica della Repubblica di eventi di questo genere, quindi non penso che ci debba essere molta discussione. È chiaro che bisogna distinguere coloro che riceveranno fondi dallo Stato da coloro i quali riusciranno ad andare avanti con le loro risorse, le loro energie, e quindi saranno più liberi come impresa. Questo mi sembra evidente. Presidente, io vorrei tornare un attimo sulla risposta che ci ha dato prima, così innanzitutto chiariamo un attimo con gli ascoltatori che non sono particolarmente addentro alle questioni bancarie, e gli diciamo: quando il Presidente Patuelli parlava delle regole che ci sono, parlava di regole che impongono, per così dire, nella concessione del credito da parte delle banche, alcune impostazioni che consentono di mantenere determinati criteri patrimoniali, va bene? Questo no, è il primo. È un criterio giuridico. Criterio giuridico, sì. Un criterio giuridico è che chi chiede un prestito alla banca, nel momento in cui lo chiede, deve dimostrare di poterlo restituire. Sì. A questo punto, se non è in grado e se è in difficoltà, non lo può restituire. Questa norma va cambiata. Questa norma va cambiata, secondo lei, Presidente? Guardi, che questa norma è anche una norma di diritto penale. Quindi è una norma severissima, una norma severissima. Il problema è che noi viviamo in un'emergenza, e penso che la cosa principale sia quella delle garanzie dello Stato. L'idea del ministro delle attività produttive, ingegner Patuanelli, mi sembra un'idea giusta, ovvero sia lo Stato dà le garanzie e poi si controlla che queste garanzie e queste risorse non vengano sperperate da chi le riceve. Quindi quelle norme non vanno cambiate, Patuelli, secondo lei? No, nel senso che non sono io che voglio mettere in moto questo dibattito, glielo dico con grande chiarezza. Ok, perfetto, cioè, chiarissimo. Mi permetta di completare. Noi non siamo uno Stato chiuso dalle Alpi nell'autarchia, e di conseguenza vi è una grande circolazione e concorrenza. Di conseguenza non è che le norme possono essere cambiate in un solo paese, perché noi non siamo un'economia autarchica, quindi è una vicenda complessa quella delle norme. Maria, prego. C'è qualcuno che suggerisce prestiti restituibili a 20 anni? Le sembra una ipotesi percorribile? Ma guardi, i mutui che vengono fatti sono anche a scadenza più lunga. Anche a 30, no? 30, sì. Quindi alcuni a 40. Mi sembra una roba così strana, per essere precisi. Bisogna vedere di nuovo quali sono le garanzie. Quanti mutui ci sono a 20, 25, 30 anni fatti in questi ultimi anni a tassi veramente infimi, i più bassi della storia dell'Italia Unita? Quindi penso che di idee ce ne sono tante, il punto è che l'Italia più di altri paesi europei è entrata in questa fase di crisi emergenziale del coronavirus molto indebitata. È chiaro che chi è più indebitato fa più fatica a farne molti altri di debiti. Questa è la situazione che ci differenzia e ci penalizza. Senta, il governo è molto preoccupato proprio della situazione debitoria italiana e teme che questa debolezza possa portare anche a delle incursioni sui nostri gioielli della corona. Secondo lei il fatto che il Covid-19 stia cambiando lo scenario economico anche per il Golden Power e che quindi lo Stato fa bene a proteggere le banche e le assicurazioni nazionali da mire straniere, ne parlano ormai da giorni un po' tutti, c'è un'attenzione particolare anche del Copasir su questo. Lei è d'accordo? Io sono d'accordo che si debba essere un'attenzione a questo settore, innanzitutto perché ci sono dei grandi capitali malavitosi estero vestiti, ci sono capitali di paesi dittatoriali che possono fare delle incursioni di grande facilità e il mercato non è tutta bellezza e tutta ordine, bisogna stare attenti alle incursioni dei pirati. Quindi penso che l'Italia, che è stata negli ultimi decenni il paese europeo più aperto di tutti gli altri ai capitali da qualunque parte venissero, si deve porre degli interrogativi e seguire gli esempi di maggior prudenza che vengono per esempio dalla Francia. E questo è un buono spunto da parte sua. Senta, Presidente, le mosse della Banca Centrale Europea, insomma, mi pare che francamente più di così a questo punto non si possa fare, al di là delle dichiarazioni che, insomma, che sono state ritenute un po' improvvide da parte di Christine Lagarde, quelle iniziali, insomma, a questo punto siamo a liquidità illimitata, no? Questa è una fase, come dire, voi come sistema bancario entrate in questa fase, del coronavirus, in una situazione già piuttosto delicata, perché oggettivamente questa politica dei tassi zero durata a lungo ha un po' compresso i vostri bilanci. Ci sa dare un'idea della capacità di resistenza del sistema bancario? Guardi, innanzitutto io non ho nessuna responsabilità e nessuna notizia dei flussi della vigilanza bancaria e fra l'altro le devo dire che intellettualmente obietto alla definizione molto in uso peraltro di sistema bancario, perché le banche sono tutte diverse fra di loro e tutte in concorrenza, quindi non sono un sistema come un orologio, ogni elemento dipendente dall'altro. Io voglio darle un dato innanzitutto: al 31 dicembre scorso il 19,5% del debito pubblico italiano era detenuto dalla BCE e dalla Banca d'Italia e ogni mese che è passato, anche prima del coronavirus, questa percentuale si è incrementata. Adesso con la decisione di togliere i freni all'emissione delle liquidità, innanzitutto agli acquisti di titoli di Stato nazionali da parte della BCE, del sistema europeo, delle banche centrali nazionali, queste percentuali stanno crescendo con rapidità e la BCE ha anche tolto il limite del 33% di detenzione del debito pubblico di un singolo Stato nazionale che ne fa parte. Quindi l'immissione di liquidità della BCE è innanzitutto rivolta a tutelare il debito pubblico e a garantire tassi bassissimi e a garantire l'opposto di quello che inizialmente la signora Lagarde aveva dichiarato, uno spread il più basso possibile. L'altra vicenda riguarda l'emissione da parte della BCE di liquidità sì, al mondo bancario, in cui ciascuna banca deve chiederne quanto essa responsabilmente decide. e chiaramente questa è una liquidità che serve, ma deve servire soprattutto per nuovi investimenti, per nuovi investimenti. Io sono molto d'accordo in questi giorni con coloro che incominciano a esaminare come l'Italia potrà riprendersi dopo l'emergenza coronavirus, e sono molto convinto che lo Stato dovrà fare la sua parte investendo innanzitutto in infrastrutture, infrastrutture materiali e immateriali. L'Italia è un paese che è indietro nel piano delle infrastrutture, il mondo delle costruzioni è quello che ha sofferto di più nel decennio precedente e normalmente l'edilizia, le costruzioni sono uno dei fattori più accelerati di sviluppo. Senta, Presidente Fatuelli, noi siamo indietro anche nella ricerca scientifica e i nostri ricercatori che stanno lavorando in questi giorni, in queste settimane, fanno salti mortali con mezzi molto modesti in certi casi. Vediamo che per esempio in Germania il Covid-19 ha avuto per ora almeno una epidemia contenuta grazie anche a un sistema sanitario che ha avuto meno tagli di quanti non ne abbia avuto l'Italia. Quindi le chiedo, accanto alle costruzioni, come un piano industriale nuovo può davvero modernizzare l'Italia, partendo da quale altro settore? Perché mi pare che non siamo indietro solo sulle costruzioni, siamo indietro anche su altro. Lei pone due questioni. Il primo settore su cui l'Italia deve modernizzarsi sono le normative. In una Europa che è un condominio inevitabile e in un mondo che è inevitabilmente globalizzato, perché le comunicazioni lo globalizzano, vi è la prima concorrenza che è fra le leggi, fra le norme. Chi ha norme più complicate, di difficile applicazione, lente, rallentanti come l'Italia, è penalizzata nella competizione con i paesi che hanno normative più semplici, di più facile applicazione, che favoriscono le iniziative private, pubbliche e la pubblica amministrazione. Lei ha fatto un accenno alla ricerca scientifica e alla sanità. Mi permetta di dirle che la ricerca scientifica, da quello che capisco io, è a macchia di leopardo in Italia, con delle eccellenze che dipendono sì dalle strutture, perché ci sono delle strutture di avanguardia anche in Italia, non diffusissime certamente, concordo con lei, ma vi sono poi le fantasie, le intelligenze italiane che hanno sempre brillato in termini di ricerca anche nel secolo scorso. E l'altra questione che dovrà essere ripensata è questa dello sfrenato regionalismo che noi stiamo vivendo da 20 anni tondi, ovvero sia dalla riforma del titolo quinto. Se si va a leggere l'articolo 117 della Costituzione, come è stato riscritto all'inizio del nuovo secolo, si vede che il meteorite di cui voi parlavate all'inizio, dato che non è contemplato tra le responsabilità esplicite dello Stato, diventerebbe competenza delle regioni. Quindi sarebbe bene avere consapevolezza che molte norme, anche costituzionali, fatte con una certa frettolosità, dovranno essere ripensati alla luce di questa esperienza super traumatica del coronavirus. Grazie Antonio Patuelli, Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie. Qualche ascoltatore. Giuliano da Brescia, buongiorno. No, è caduto. Giuseppe dalla provincia di Verona. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Senta, io vorrei sapere, forse è colpa mia, ma non ho trovato granché nei vari decreti che si sono succeduti per quanto riguarda le provvidenze a favore dei lavoratori autonomi che agiscono con la ritenuta d'acconto. Allora, guardi, le posso dire una cosa, le consiglio di mandare un'email al Sole 24 Ore e a Due di Denari, che forse sapranno rispondere meglio. Per i lavoratori autonomi ci sono una serie di previsioni a partire dai 600 euro che, insomma, dei quali stiamo discutendo. discutendo da stamattina, visto che è partito il sito INPS. I nostri ascoltatori scrivono moltissimo. Ci stanno scrivendo, questo, cioè, ci stanno scrivendo moltissimo. Sì, sì. E poi che poi diventeranno forse 800 e poi i 600 euro al mese. Fabio da Roma, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno Latella, grazie per avermi richiamato. Un intervento soltanto su quello che diceva Patuelli 10 minuti fa, riguardo le banche che non erogano prestiti senza garanzia a un commerciante, che era l'esempio che aveva fatto appunto la richiesta. È evidente che Patuelli si spiega molto bene, ma quello che rischia di non arrivare ai più è che le banche non hanno soldi soltanto propri, hanno i soldi nostri, hanno i soldi delle imprese. Se non chiedono garanzie, purtroppo poi non possono prestare questi soldi. Certo. È evidente che poi si va a finire come fu nel 2008, Lehman Brothers insegna. Sì, sì, no, ma il punto, Fabio, è chiaro, cioè noi lo ricordiamo sempre, perché poi c'è un po' di, adesso senza voler necessariamente difendere le banche, però ricordiamo sempre che anche le banche sono delle imprese e hanno con dei particolari, con dei loro criteri, eccetera, eccetera, sono delle imprese, devono rispondere a determinate logiche e hanno i soldi di tutti, non solamente E i recenti fallimenti di alcune banche, anche italiane, i problemi che alcune banche italiane hanno avuto nell'aver dato soldi a pioggia nei passati decenni, sono ancora lì tutti a ricordarci di quanto soldi a musso, sì. Possiamo anche dire. Ma sentiamo un ascoltatore invece via WhatsApp. Quanto c'è stato, come dire, di problema in alcune aree del paese proprio per questo. Allora, un WhatsApp di un ascoltatore sul tema fasce di età, rientro al lavoro, sentiamo, va. La riapertura differenziata per età potrebbe comunque innescare dei problemi enormi e far ripartire la pandemia, perché i giovani che escono e si contagiano fra di loro, seppur non a rischio, poi tornano a casa e spesso incontrano degli anziani. Come si risolve questo problema? Ma infatti, come ci diceva Cagnoli prima, no Maria, è più complesso, sì, di così, cioè la cosa è più complessa. L'importante di così è cominciare a lavorare a un piano di rientro graduale, e tutte queste ipotesi, quelle anche legate a come diceva Cagnoli prima, a macchia di leopardo, alle aree in cui si può intervenire, l'ha detto anche il ministro Patuanelli ieri, però insomma bisogna che comincino a pensarci, sì, adesso, perché sì, ci vorrà ci si faccia un ragionamento. In questo senso va detto, no, che su questo fronte Matteo Renzi ha aperto una breccia, perché insomma non è stato un ragionamento, poi io ho sentito, l'ho visto in TV, ho sentito gli audio, ha aperto una breccia dicendo iniziamo Cagnoli a ragionarci. La breccia veramente, per primo l'ha aperta Cagnoli, il nostro ospite di oggi. Va bene. Abbiamo qualche altro WhatsApp, sentiamone uno, va. Noi cosa non abbiamo capito dalla Cina? Cioè, come possiamo sentirci migliori e già pensare di riaprire dopo Pasqua se la Cina ha fatto 57 giorni di totale chiusura e ora sta riaprendo, ma in una maniera talmente minima, e noi adesso stiamo riflettendo se far uscire i bambini piuttosto che riaprire dopo Pasqua? Capito? No, ma nessuno dice riaprire dopo Pasqua. Attenzione, qui stiamo semplicemente parlando del dopo, ragionare lockdown, sul dopo, programmare che il comunque, dopo che comunque durerà, diciamo la verità, durerà, salvo alcune aziende particolari, un altro fino ai primi di maggio, come minimo. Ricordo che Imperial College ha detto che l'aver fatto la chiusura totale in Italia ha salvato 38.000 vite, quindi questo non dobbiamo dimenticarlo. No, e dobbiamo chiudere però. Cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20 con tutti gli altri alle 6:30. Ciao.